attenzione ragazzi, Out of Mind Summer Live 06 qui dalla spiaggia del Basilico Beach, 47 48, ospita niente meno che dal vivo Gigi D'Agosto. Solo su M2. Incredibile ma vero. Voi che ci ascoltate a casa, succede sul serio qui a Rimini, stabilimento Basilico Beach, Provenzano di Sei, Out of Mind Summer Live 06, solo su M2O. E in questo momento suona Gigi D'Agostino. We'll be right back.

662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67 662 333 64 67. Attenzione ragazzi, perché il flusso ritmico e cardiaco di Gigi D'Agostino si ferma per qualche minuto. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta nazionale su Out of Mind Summer Live, qui dal Basilico Beach, Rimini, 47-48 bagno, sopra la sabbia, sotto al sole, Gigi D'Agostino, solo su M2. Put

Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Mentale. rain. Bang, trouble, you got on a double, don't let it trouble your rain. Cause the wind, trouble, you got on a double, don't let it trouble your rain. Bang, trouble, you got on a double, and you don't let it trouble your rain. Bang, trouble, you got on a double, don't let it trouble your rain. Bang, trouble, you got on a double, don't let it trouble your rain. Cause the wind, trouble, you got on a double, don't let it trouble your rain. Cause the wind, who's trouble down the drain. Ah! ai, Rimini. Il flusso ritmico e cardiaco di Gigi D'Agostino si ferma qualche minuto. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta nazionale con Out of Mind Summer Live. Qui da Rimini, Basilico Beach, 47-48 fino al 20 agosto. In questo momento in console, niente meno che... Se il tempo non fosse, Gigi! Non sarebbe. E se non fosse l'istante, non sarebbe il tempo. Bingo! Ci manda in pausa e rimanda l'appuntamento domani con Provenzano DJ, sempre qui alla stessa ora e sullo stesso canale. Ciao Italia!